tempo. YouTube Social Village di Marta Cagnola. Il mio momento preferito del sabato, quando arrivano le 16 e 5 minuti, più o meno in questo momento sono le 16 e 5 minuti e 50 secondi e inizia il nostro appuntamento in diretta con RadioTube, le due ore di RadioTube Social Village e RadioTube Social Network. La prima ora, spettacoli, tantissimi spettacoli, tanta musica, ma non solo, parleremo di musica e di televisione in questa prima ora, e la seconda ora è quella di tutta l'attualità della settimana, dalla rete e della rete, andremo alla scoperta anche di molte cose che interessano i ragazzi e quindi sono utilissime da conoscere per chi ha a che fare con i più giovani, perché altrimenti poi si parla una lingua diversa, non ci capiamo. State a sentire, state con noi perché sarà molto interessante. 349-238-6666 il numero per i vostri sms e whatsapp, e poi ci sono i miei social @MartaCagnola su Twitter e su Instagram. Ma con cosa partiamo? Partiamo con un po' di musica, veramente, ve lo dico. Una delle mie canzoni preferite è questa qua. Nato danzando sul naso del mondo. Fortuna inventa la bellezza nell'abbraccio delle sue tante famiglie, madri e sorelle che si curano di lui, e sguardi di sirene che riposano negli angoli di casa sua. Questo ragazzo di 40 anni amato un uomo e poi una donna, mi racconta che ha passato un anno e mezzo in una comune nello stato di Bahia, ed anche se da tempo è ritornato sarà sempre un figlio di Iemanjá, di Iemanjá. Dimmi se questa è o non è magia, asce, asce, fortuna a te. Chi dice che non è vero, siamo obbligati ad essere felici. Dimmi se questa è o non è magia, asce, asce, fortuna a te. Storia di chi rimane, invece lascia tutto e se ne va. Qui sono arrivato. Uscito l'8 maggio in digitale, Casa Casa Live Session. Voglio sapere di cosa si tratta, insomma già dal titolo un po' capiamo che cos'è questo progetto di un cantante che avete sicuramente riconosciuto e che è Mario Venuti. Benvenuto Mario. Grazie, ciao a tutti, ciao. Mario, che idea hai avuto e cos'è questo Casa Casa Live Session? Diciamo che la quarantena è stata, come dire, ci ha fatto riscoprire, se ce ne fosse bisogno, insomma, il nostro piccolo mondo domestico, e quindi queste session sono delle session registrate in casa. Poco prima, giusto in tempo di permettere anche l'accesso di alcuni musicisti, amici, devo dire, l'avrei fatta comunque. Il caso ha voluto che poi dopo ci imponessero di rimanere chiusi in casa, e quindi poi dopo ho rilasciato queste canzoni una volta a settimana durante tutto il periodo, e poi con dei video che sono tuttora disponibili su YouTube. Però poi, siccome erano comunque registrati bene, diciamo, non era una normale diretta Instagram dove o Facebook dove l'audio, insomma, è quello che è. No, sono stati registrati per bene, sono stati missati, per cui era un materiale che poteva benissimo figurare nella mia discografia, insomma, essere pubblicato, e così è stato. L'abbiamo pubblicato su tutte le piattaforme digitali, da cui è fruibile da tutti. Sono curiosa di sapere come ti era venuta l'idea, ancora prima del lockdown, visto che tu hai cominciato a pubblicarli dal 6 marzo, quindi non hai detto bugie perché le date quelle sono, come ti era venuta già l'idea di fare delle cose domestiche? Ma volevo fondamentalmente immortalare alcune versioni live che per qualche motivo non avevamo registrato durante l'estate, insomma non era stato possibile fare delle registrazioni durante i concerti, però queste versioni mi piacevano perché erano diverse dall'originale, e poi c'erano alcune canzoni dell'ultimo disco di Soyuz 10 che non erano stati dei singoli e quindi magari meritavano un po' più di attenzione, appunto Il tempo di una canzone, Il mondo coi tuoi occhi o L'essenza, e quindi abbiamo fatto insomma un po' di canzoni nuove, un po' di canzoni del passato rivedute e corrette. E alla fine è venuto questo mini album, insomma, di 7 canzoni, di cui insomma siamo tutti abbastanza soddisfatti, per cui era un... quindi avevo piacere che rimanesse a futura memoria. Giusto. Com'è stata l'accoglienza di questi video che tu hai pubblicato piano piano? Perché adesso che un po' le porte si sono aperte e poi forse si apriranno ancora di più per i concerti, abbiamo un po' più di mondo a disposizione. Quando hai cominciato a pubblicare quei video, eravamo in un momento in cui davvero avevamo fame di una finestra su qualcosa di diverso. Sì, devo dire, tutti ringraziavano nei commenti, grazie per questo regalo, insomma, penso che abbia avuto in fondo una funzione, come dire, consolatoria a qualcuno, insomma. Penso sia servito come senso di vicinanza in un momento in cui tutti ci siamo ritrovati da un momento all'altro chiusi a casa, e poi anche il fatto che la casa fosse, visto che i palcoscenici erano comunque chiusi, no? Far diventare la casa un palcoscenico è stata una cosa, come dire, adatta al momento, e poi tutti a ruota hanno cominciato a fare registrazioni più o meno insomma da tutte le parti del mondo. Abbiamo visto anche Paul McCartney suonare il piano da casa sua, i Rolling Stones, insomma alla fine un po' questa idea della casa come palcoscenico si è diffusa a macchia d'olio, un po' come il virus, insomma è stato un altro virus. Devo dire, video però, altro che casalinghi, dei bellissimi video sono. Sì, sì, ma infatti sono molto curati, c'è una regia, sono state fatte varie registrazioni, poi sono state scelte le migliori, insomma è una cosa abbastanza curata, non è la diretta così, prendo la chitarra e suono. Che va benissimo, per carità, nulla in contrario, ha il suo spirito e alla gente piace molto da questa spontaneità, però realmente nei progetti questo voleva essere una cosa fatta per bene, e le registrazioni sono state fatte, credo che fosse il 21 di febbraio, quindi è stato proprio poche settimane prima che chiudessero tutto. C'è stata una specie di, non so, preveggenza, non lo so, ho intuito forse che era il momento giusto per fare una cosa del genere. Naturalmente alcuni che vedono i fiati lì che suonano, tutti dicono no, ma non ci sono le norme di sicurezza, gli sputacchi dei fiati sono infettivi, sono... Tranquillizzatevi, è stato fatto poco prima del lockdown. Avrei potuto fingere, dire che sì, li ho fatti durante la settimana, ma non è così, mi sembra onesto dire la verità. È stata una settimana pazzesca, perché è stata la settimana in cui abbiamo scoperto che si potranno rifare i concerti con enormi misure di sicurezza, ma nella quale tutti insieme sono stati cancellati quasi tutti i grandi eventi dell'estate 2020. Che impressione ti ha fatto questa gestione della crisi per quanto riguarda la musica dal vivo? Tu che cosa hai provato? Ma certo, mi dispiace. Io però sì, capisco i grandi eventi, gli stadi, i concerti devono essere anche programmati con un certo anticipo, non si può improvvisare. Però io continuo a sperare che da agosto, che per agosto e settembre qualcosa anche di estemporaneo, di anche piccolo, anche per un pubblico ridotto, io continuo a sperare

Radio Tube Social Village. Passerotto, non andare via. Nei tuoi occhi il sole muore già. Scusa se la colpa è un poco mia, se non so tenerti ancora. Cosa è stato di un amore che asciugava il mare, che voleva vivere, volare, che toglieva il fiato ed è ferito il mare. Non andar via, ti prego, passerotto, non andare via. Allora, io devo essere super partes. Non è perché questa canzone è di Claudio Baglioni, soprattutto si intitola Sabato pomeriggio, quindi mi sento un po' così coinvolta, visto che il sabato pomeriggio è il mio regno. Ma qua bisogna essere super partes perché ci sono delle elezioni, c'è la par condicio. No, non esageriamo. Ci sono le votazioni di I Love My Radio. Avete sentito mille volte il promo, lo spot a Radio 24, tutte le radio italiane unite, e credetemi, è una cosa veramente bella, perché in un momento così difficile tutte le rivalità sono davvero superate. 45 anni di radio come la conosciamo noi, la radio moderna, la radio un tempo, le radio private, le radio commerciali, network, insomma 45 anni, 45 canzoni, sono 45 milioni gli ascoltatori in Italia della radio, quindi potrebbero esserci 45 milioni di voti. Ogni anno una canzone, questa è quella del 1975 ed è Sabato pomeriggio di Claudio Baglioni. Ma parliamo delle canzoni dei primi anni. Io sono super parte, se andiamo dal 75 al 79 e ne parliamo con Simone Fattori, esperto di musica, esperto di radio. Andate a vedere il suo sito simonefattori.com, e poi è anche l'autore del blog Suoni Suoni nell'etere. Ciao Simone! Ciao, mi hai fatto incastrare col titolo Suoni nell'etere. Sì, e poi tutto attaccato è complicato. Ecco. No, vorrei anche avere 45 anni per fare, come dire, conto pari con tutta la tua presentazione, ma purtroppo. Ma perché? Perché dobbiamo andare in questi particolari? Possiamo anche barare sull'età. Simone, partiamo da questo sabato pomeriggio. Devo dire che si parte subito forte nel 75. Sì, si parte subito forte nel 75, e tra l'altro io vorrei continuare su questa china e dire che io c'ero già e mi ricordo... Io non lo confesserò mai. No, io lo confesso, perché vi devo raccontare che all'epoca vivevo anche il mio primo amore, avevo 4 anni ed ero innamorato di una ragazza molto più grande di me, e il massimo dell'intimità era appunto quando le chiedevo di cantare insieme Patterotto, giusto, anni scarsi me lo potevo permettere, non che nel frattempo sia cambiata di molto la dizione, però voglio dire, almeno Passerotto riesco a dirlo bene, e quindi insomma è una di quelle canzoni che devo dire che tutte e cinque queste canzoni delle quali velocemente parleremo oggi sono delle canzoni che hanno lasciato anche proprio nella lingua italiana un qualche modo di dire, insomma, si citano spesso tutte e cinque, c'è una frase almeno in ognuna di queste cinque canzoni che viene citata correntemente quando si parla anche di altro, e qui c'è il famoso Passerotto. Allora Simone, scoperto... aspetta, andiamo, sentiamo anche nella seconda canzone, 1976, sì. E sentiamo anche qua se c'è una frase. Beh, mi sa di sì, qua tanto l'hanno riconosciuta tutti, basta questo inizio e uno dice: ma io potrò mai stare solo? Secondo me Riccardo Cocciante nel 1976 non poteva stare solo, non poteva stare. Io non posso stare fermo con le mani nelle mani, tante cose devo fare prima che venga domani. Allora c'è Valeria Bernardi in regia che per ogni canzone mi dice c'ero o non c'ero. Valeria, non dico quando ci sei. Dal 75 al 79 a un certo punto ci sei. Ok, perfetto. Simone, anche qui io non posso stare fermo con le mani nelle mani. C'è c'è una frase che è entrata nel nostro modo di parlare. Tra l'altro, la curiosità di questa canzone, sai che l'album si doveva dall'inizio chiamare Concerto per Margherita, ma si sono accorti quando era quasi finito che la canzone Margherita non era ancora stata scritta, o quantomeno non aveva un testo, e fu il paroliere che si accorse di questa cosa e disse: beh, qui bisognerà scrivere un testo. Ci provò a dormirci su Marco Luberti e sognò l'incipit, quello che poi è entrato nel modo di parlare di ognuno di noi, e da lì il testo è venuto di getto, tutta in una notte, alle 4 del mattino, perché gli artisti si chiamano alle 4 del mattino tranquillamente. Chiamò Riccardo Cocciante e disse: va bene, abbiamo il testo pronto perché l'ho sognato. Questa è una cosa ricorrente nel mondo della musica, di sognare testi o parte dei testi. A me non è mai successo, ma insomma, tant'è che faccio un altro mestiere. Allora, andiamo al 1977. Ti amo, un solo ti amo, in aria ti amo. Se viene testa vuol dire che basta, lasciamoci ti. È difficilissimo, perché anche nel 77 andiamo fortissimo. Umberto Tozzi, Ti amo, Simone. Primo maggio su Coraggio, per esempio. È vero, è vero. Ci ha cambiato il primo maggio, perché il primo maggio è primo maggio su Coraggio, esatto, è vero. Per quelli che non lo sopportano, che non sopportano le feste, insomma, non c'era prima, non c'era qualcuno che ci incoraggiasse a superare, cioè era per il Natale, per l'Epifania, ma per il primo maggio prima del 1977 non c'era. Che dire di questa canzone? Costruita su un semplice giro di do, su quattro accordi, tant'è che il primo Jovanotti, quello di Gimme Five, ebbe a dire una volta che è, secondo lui, è il primo esempio di canzone house della musica italiana. E quindi, insomma, però, nonostante la semplicità della costruzione, è un successo in tutta Europa, con svariate cover e svariate celebrazioni, ultima delle quali l'inserimento in un episodio della Casa di Carta. L'ultima medaglia che questa canzone ha conquistato nel corso di questi anni. Diciamo l'ultima in ordine cronologico, in ordine, perché c'è ancora da votare in questo I Love My Radio. 1978. Ecco. Te una donna per amico, ma il mio mestiere è vivere la vita, che sia di tutti i giorni o sconosciuta. Ti amo forte, debole compagna, che qualche volta impara e a volte insegna. Beh, ragazzi, qui possiamo dire qualcosa, Simone, o tutte le parole sono superflue? E anche qui non si può scegliere un verso, però del resto stiamo parlando di Mogol, e quindi è anche abbastanza normale che sia così. Questa è una canzone su richiesta. La storia di questa canzone è dell'amica Adriana, una amica di famiglia, un'amica molto intima di Mogol, che gli chiese di scrivere una canzone per lei. Lui sentì questa musica che gli aveva proposto Lucio Battisti e decise che quella era il motivo giusto per scrivere un testo dedicato ad Adriana, che era la sua migliore amica davvero. Era molto amico anche del marito di Adriana, però poi a un certo punto si sono persi di vista, ha detto Mogol, non sa più cosa faccia Adriana, però ha questa canzone dedicata che è un grande successo e secondo me una di quelle che possono ambire a non diciamo nulla. No, perché sei par condicio, non vorrei. Anche perché sono 45 le canzoni. Noi oggi ascoltiamo le prime 5, poi andremo avanti, perché sono 45 e ci sono 45 milioni di voti potenziali, perché 45 milioni sono gli ascoltatori delle radio italiane. Tutte insieme, 1979. Thank you. piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole, sei chiara come un'alba, sei fresca come l'aria, diventi rossa se qualcuno ti guarda e sei fantastica quando sei assorta nei tuoi problemi, nei tuoi pensieri. Allora, ovviamente io mentre ho il microfono chiuso canto, però arrivano anche messaggi degli ascoltatori. Questa è l'ascoltatrice che io conosco perché va scritto sul mio cellulare. Oggi si canta e si piange un po'. No, vabbè, un po' di nostalgia, ma non tanta. Io c'ero sempre. Come mai le so tutte? Anch'io le so tutte e non si può non saperle tutte. Alba Chiara, queste 1979 Vasco Rossi, Simone. Sì, Vasco Rossi che tra l'altro ha anche un legame fortissimo proprio con il mondo della radio, perché sappiamo che lui ha iniziato a appunto radio nel modenese, eccetera, eccetera. Forse non tutti sanno che il primo vero problema con la giustizia, Vasco Rossi non l'ha avuto per la sua vita spericolata, ma l'ha avuto per colpa delle radio, perché Punto Radio è stata una delle prime radio italiane, quelle libere, quindi erano anche, come dire, clandestine, non proprio diciamo legali, e arrivò la polizia postale negli studi di Punto Radio, sequestrò tutto e arrestò quelli che trovava dentro lo studio, e c'era tra questi Vasco Rossi, che fece una notte in gattabuia e un processo dal quale poi fu assolto, perché nel frattempo insomma la legislazione era cambiata e quindi le radio libere erano diventate, come dire, regolari, e quindi continuò il suo programma, nel quale trasmetteva cose che in Italia in quel momento era difficile ascoltare. Fu uno dei primi a portare i primi dischi di Bruce Springsteen, eccetera, eccetera. Tra l'altro Alba Chiara è l'esempio di una canzone di un'altra protagonista inconsapevole, perché Vasco vide questa ragazzina di 13 anni mentre aspettava che la mamma preparasse il pranzo, e quindi la guardava dalla finestra prendere l'autobus, e le dedicò questa canzone. Ma questa ragazzina è protagonista di ben due canzoni di Vasco Rossi. Alba Chiara, perché vabbè, lo sappiamo, canzone famosissima, ma anni dopo, quando questa canzone ebbe successo, perché questa canzone ci ha messo un po' di tempo ad avere successo, non ebbe subito nel 1979, lui raccontò a questa ragazzina, la rincontrò e raccontò che quella canzone era dedicata a lei. Lei non credette alle sue parole e comunque insomma scappò sdegnata, e quindi Vasco Rossi scrisse Una canzone per te, per ribadire che quella canzone era dedicata veramente a lei. E infatti in Una canzone per te c'è un verso nel quale si dice: lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande, che dal vivo Vasco canta: lei è un'alba chiara e tu sei già troppo grande. Che meraviglia. Allora, queste erano le canzoni dal 75 al 79. La prossima settimana andremo dall'80 all'84. Vi torno a segnalare due siti, quello di Simone, simonefattori.com, per suoni nell'etere, perché ci sono un sacco di notizie sulle radio e anche cenni storici, tante cose importanti, e poi ilovemyradio.it, appunto per votare la vostra canzone preferita tra queste di questi 45 anni. Grazie Simone, a prestissimo! Grazie a te. Posso dire una cosa che sogno di dire da una vita? Dai, ti prego, fallo! Via il televoto! Ciao Simone! Ciao! Viabilità! Radio Tube Social Village. Abbiamo fatto un piano di musica in questa prima ora perché siamo stati a casa di Mario Venuti, che ha presentato questo suo album in digitale, che poi è nato poco prima della quarantena. Aveva deciso di raccogliere un po' di amici musicisti in casa, hanno fatto questo live in casa, e durante il lockdown pubblicava ogni tanto un video. Tutti i video sono su YouTube. Quest'album è molto bello. Vabbè, io mi sono concessa di ascoltare un po' di Fortuna perché era meravigliosa. Abbiamo incontrato Paolo Fresu, personaggio straordinario, con il quale abbiamo parlato non solo di quello che ha fatto in questo periodo, tra parentesi questa bellissima versione di Domani un altro giorno insieme a Rita Marco Tulli e ovviamente a Ornella Vanoni, ma anche del Forum Arte e Spettacolo, perché ogni settimana cerchiamo un po' di parlare della situazione, anche dell'industria dello spettacolo, perché è giusto sostenere una parte importante della nostra economia in questi momenti un po' complicati. Abbiamo ascoltato le prime 5 canzoni di I Love My Radio, però adesso non volete votare subito, magari prendetevi un po' di tempo, perché poi noi ogni settimana daremo qualche elemento su queste canzoni. La prossima settimana andremo dal 1980 al 1984. 4. Adesso però vorrei accendere un po' la televisione. Momento difficile perché veniamo da 2 mesi in cui i programmi televisivi o sono stati sospesi o hanno dovuto cambiare formula. Adesso però poco a poco si riprende, ci sono le novità del prossimo palinsesto e sono contenta di chiamare oggi un amico di RadioTube, ma anche perché è il compleanno di Dago Spia, quindi facciamo anche gli auguri a Dago Spia, Giuseppe Candela. Ciao Giuseppe! Ciao Marta, grazie. Anche perché insomma, tu su Dago Spia hai scritto pagine epocali. Epocali, l'uomo che ha scoperto il Pratigate, che ha smascherato tutto su Dago Spia, ragazzi. Allora, Giuseppe, però scrivi anche per il Fatto Quotidiano, diciamolo giustamente. Cosa sta per succedere in televisione? Perché è un momento difficile, perché in questo momento, in questo periodo dell'anno, più o meno negli anni scorsi i giochi erano già fatti, perché a fine maggio si cominciavano a presentare i palinsesti, quello Rai, quello Mediaset, quello della 7. Adesso è dura. Che cosa succederà intanto quest'estate? È una TV inevitabilmente condizionata dal coronavirus, nel senso che prima parlavi di musica, ecco, per esempio non ci saranno programmi musicali. Siamo abituati da anni al Win Music Awards dall'Arena di Verona, al Summer Festival in onda su Canale 5, non essendo possibile, la musica troverà meno spazio, è già questa la prima notizia. Così come probabilmente invece troverà spazio lo sport, qualora il campionato di calcio dovesse ricominciare il 13 giugno, perché quello accenderebbe le trasmissioni sportive. Questi già sono 2 cambiamenti rispetto alle estati solite. La prima novità in realtà è che rispetto allo scorso anno molti programmi si allungano e quindi la stagione invernale, se così vogliamo chiamarla, arriverà fino a fine giugno. Faccio un esempio: Striscia la Notizia, che è un programma che solitamente salutava il pubblico a fine maggio, arriverà a fine giugno. Questo varrà anche per il daytime sia di Rai 1 e per molti programmi di Canale 5. Il motivo è semplice: prima per informare i telespettatori, quindi molti talk saranno accesi. Certo. E poi perché l'abbiamo visto, cioè la platea di spettatori è ancora molto elevata, cioè se nelle settimane più intense abbiamo sfiorato i 30 milioni in prima serata, ancora oggi ce ne sono 26 milioni nella fascia più importante, vuol dire che la televisione è molto centrale in questo momento. Le novità, una novità arriva da Carlo Conti, perché su Rai 1 quest'estate, probabilmente da fine giugno, arriverà un nuovo programma dal titolo Top 10, un programma basato sulle classifiche. Abbiamo già avuto il 10 cose qualche anno fa che non aveva funzionato, qui classifiche, sì. Invece. Sì, classifiche, ci si affida al saper fare insomma televisivo di Carlo Conti, che è un po' da questo punto di vista una garanzia. Il punto è che anche in questo caso, cioè senza pubblico, con quanti ospiti, ci sono una serie di varianti. Per esempio il classico estivo di Canale 5, Temptation Island, anche su quello Maria De Filippi sembra puntare nonostante tutto, cioè dovrebbe esserci la nuova edizione di Temptation Island. Un Temptation Island con le distanze, col distanziamento interpersonale, non è facilissimo, però. Non è facilissimo. Sta ragionando sull'ipotesi di sottoporre il cast a una quarantena e a dei test prima dell'ingresso insomma nei villaggi, e però insomma, anche lì si studiano soluzioni. Una televisione che cerca di ingegnarsi, per esempio nel preserale arriverà su Rai 1 Reazione a Catena con Marco Liorni, che è un gioco dove i concorrenti si parlano all'orecchio, per esempio. Ah, questo certo. Non sarà possibile, e quindi si studiano soluzioni, così come lo stesso varrà per Gerry Scotti e Caduta Libera su Canale 5, dove si dovrà ragionare anche lì, anche se è un po' più facile perché i concorrenti sono più distanziati. È una TV che cerca soluzioni e inevitabilmente, insomma. Allora, Giuseppe, poi torneremo a parlare perché ti chiamerò ancora nelle prossime puntate per sapere i programmi estivi, però io farei una proposta. Visto che non abbiamo i programmi musicali, però potrebbero, che ne so, Mediaset potrebbe mandare in onda i vecchi Festival Bar. Io mi divertirei a guardarli. Che dici, Giuseppe? Bisognerebbe, sì, chiederglielo. La TV su richiesta, secondo me, è una cosa carina, no? Nel senso che perché molto dipenderà, nel senso che da quello come passeremo quest'estate. Sicuramente saremo fuori casa di meno, cioè, pur certo, potendo fare delle cose. E questo dovrebbe stimolare i vertici delle aziende a concedere qualcosa in più, ma magari anche studiare qualche programma promozionale, nonostante dal punto di vista musicale, per aiutare un reparto, un settore in grande difficoltà. E i festival bar, da questo punto di vista, hanno rappresentato il picco più alto, no, di quella che era l'estate, la musica, il simbolo. Farebbe, secondo me, piacere a molti. Guarda, io non lo so, dico così, faccio il mio appello, signori di Mediaset, ascoltateci, che magari così anche in tarda serata rimandatecelo in onda e così riviviamo un po' di estati del passato e chi è più giovane scopre qualcosa di divertente. Giuseppe, allora ti ringrazio tantissimo, faccio ancora tanti auguri a Dagospia, che vent'anni sono un bel... comunicali a Roberto D'Agostino. Dei giovanotti ancora estremamente, estremamente in forma. Ti chiedo solo al volo una risposta, dammi un nome, secondo te quale sarà chi sarà il personaggio dei prossimi mesi? Questa non è facile. La verità è che non ci sarà molta innovazione, quindi mi verrebbe da dire che secondo me il personaggio che nei prossimi giorni, già, perché potrebbero esserci delle comunicazioni, sarà Amadeus, perché inevitabilmente ci si va verso il bis di Sanremo, meritato, e di conseguenza l'attenzione sarà ancora su quell'evento, perché potrebbe essere il primo grande vero evento della televisione allo stato di normalità. L'abbiamo lasciata con Sanremo, la ritroveremo probabilmente di nuovo con Sanremo. Meno male che non ce l'hanno detto all'epoca, perché ci sarebbe venuto un colpo. Grazie a Giuseppe Candela, a presto Giuseppe, un abbraccio. Ragazzi, davvero, se ci fermiamo a pensarci ci tremano i polsi. Se ci avessero detto a Sanremo, guardate che poi la situazione sarà così fino al prossimo Sanremo. Vabbè, navighiamo a vista, poco alla volta, intanto così vediamo come sarà la televisione nei prossimi tempi. Adesso linea al GR24 delle 17, poi la seconda ora, quella di RadioTube Social Network.